Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, benvenuti. Andiamo subito ai titoli del nostro sommario. Psoriasi non è solo una malattia della pelle. Strabismo, i segnali da non sottovalutare. Non fare sempre le stesse cose, cambia per far lavorare il cervello. Psoriasi, una malattia brutta da vedere, difficile da vivere. Ne parliamo oggi insieme alla dottoressa Mara Maccarone, presidente di ADIPSO, l'Associazione per la Difesa degli Psoriasici. Buongiorno dottoressa. E grazie. E in linea con noi abbiamo il professor Sergio Chimenti, direttore della clinica dermatologica dell'Università degli Studi Tor Vergata di Roma. Professore, bentornato, grazie. Buongiorno a voi. Ricordo subito il nostro numero verde se volete intervenire in trasmissione, 800 24 0024, numero per inviare i vostri sms 349 238 6666. Iniziamo ascoltando la scheda e poi la commentiamo. La psoriasi è una malattia della pelle che affligge circa 120 milioni di persone in tutto il mondo. In Italia ne sono colpite circa 2 milioni e mezzo. È una malattia autoimmune, mediata dai linfociti T. In pratica, il sistema immunitario comincia a reagire contro i suoi stessi tessuti, che nel caso della psoriasi sono le cellule dell'epidermide. Così le cellule interessate, i cheratinociti, aumentano il loro turnover. Si riproducono molto più velocemente che in condizioni normali. Nella pelle con psoriasi, infatti, le cellule impiegano soltanto da 3 a 4 giorni per maturare, rispetto ai 24-28 giorni del ciclo normale. E facendolo in maniera incompleta, si accumulano in superficie e formano le caratteristiche squame. La psoriasi può interessare tutte le parti del corpo, ma in particolare il cuoio capelluto, le ginocchia, i gomiti, le mani e i piedi, più raramente il viso. Ma professor Chimenti, in aggiunta alla nostra scheda dobbiamo mettere anche, per completare il quadro, due aggettivi che possono fare la differenza: cronica e recidivante. La psoriasi infatti è una malattia da cui non si guarisce e che è caratterizzata da un andamento altalenante. È così, professore? Sì, è così. Non si guarisce, però oggi, soprattutto per quanto riguarda le forme più gravi, diciamo che noi dermatologi utilizziamo questo modo di dire, che non si guarisce ma si può curare, sì. Nel senso che siamo in grado, nel 99% dei casi, di controllare molto bene questa malattia. E quindi è un messaggio di ottimismo che io vorrei dare ai nostri ascoltatori. Signora Maccarone, noi abbiamo detto in apertura: una malattia brutta da guardare, difficile da vivere, perché chi soffre di psoriasi oggi, nonostante tutto lo sforzo della DIPSO, nonostante le campagne informative, i pazienti vivono con molto disagio la loro malattia, proprio perché è molto visibile. Voi avete fatto un'indagine che conferma con i numeri quello che lei, come malata di psoriasi, da anni afferma. La ferma, ma da anni ci lavoro sull'informazione. Intanto colgo l'occasione per ringraziarvi, perché voi siete sempre presenti con l'informazione puntuale ogni anno, anche due volte l'anno qualche volta, per comunicare su questa malattia che veramente è brutta da vedersi. Il brutto è la discriminazione da parte degli altri. Nessuno ancora ci considera come persone normali. Questo è brutto da dirsi, ma lo devo dire. Quindi la comunicazione, io dico sempre che la psoriasi si combatte anche con l'informazione, e quindi questo è un modo di comunicare agli altri che non siamo appestati, che non è contagiosa e che non ci devono discriminare come hanno fatto fino ad oggi. Speriamo che da domani comincino a capire che non è... Magari da oggi stesso. Magari da oggi. Signora Maccarone, no? Vero, vero. Professor Chimenti, io conosco bene Mara Maccarone e spesso dice: siamo un popolo di pazienti arrabbiati. Immagino che ve ne siete accorti anche voi come medici, quindi credo che abbiate in qualche modo preso qualche provvedimento, lavorato sulla relazione, che è molto importante. Beh, certo, noi come classe dermatologica abbiamo ideato in accordo con le istituzioni, ad esempio il progetto PsoCare. Questo è un progetto veramente innovativo che ci stanno copiando, che stiamo esportando in tutte le altre nazioni europee, che è stato oggetto di una recente pubblicazione molto importante, che ha visto, e quindi noi cerchiamo, per quello che possiamo, cerchiamo di fare del nostro meglio. È chiaro che siamo in Italia e quindi ci sono le riduzioni economiche, queste sono sotto gli occhi di tutti, e quindi dobbiamo veramente arrabattarci, come si dice a Roma, per cercare di venire incontro ai pazienti affetti da psoriasi e psoriasi artropatica, sempre nel modo migliore. Onestamente siamo all'avanguardia, un po' in tutto il mondo, soprattutto in molti centri d'Italia, ma anche noi qui a Tor Vergata, e quindi cerchiamo di dare molte soddisfazioni ai nostri pazienti. Ma adesso dovrebbe essere Mara a dire. Mara, che cosa vi renderebbe meno arrabbiati? Stare bene, guarire. Sì. Comunque oggi, come ha detto prima il professor Chimenti, è vero, ci sono molti presidi, ma non tutti lo sanno. Noi siamo stati in piazza per la giornata mondiale della psoriasi e abbiamo visto migliaia di persone, non esagero perché abbiamo la documentazione in mano con le firme, di persone che ancora non sapevano che esistono questi nuovi presidi terapeutici, che esiste un modo per curarsi, per stare meglio, per vivere questa malattia un po' meglio. E devo dire che piano piano, insomma, ci stiamo arrivando, però è un gran lavoro, ci vuole gran lavoro e la volontà di tutti. E devo dire che quando noi arriviamo da un dermatologo per la prima volta, insomma, hanno pure ragione, perché insomma siamo arrabbiati, tutti ci dicono una malattia che non te la devi tenere. Vedi che gli altri ti discriminano, vai al mare, arrivi tu, si allontanano tutti gli altri, vai in piscina, entri tu, escono gli altri. Quindi tutte queste situazioni della vita ti rendono molto molto difficile viverla. E non solo, poi ci sono alcuni che si emarginano, soprattutto i giovani. I giovani e i bambini. I bambini poi magari non tanto, perché sono le mamme di più che soffrono. Abbiamo ricevuto tantissime telefonate dalle mamme quest'anno, che i bambini a scuola non li fanno giocare, che li mettono da una parte, li fanno piangere, poverini, e poi non vogliono andare più a scuola. Certo. Mi sembra anche logico, ma parlo dei teenager, cioè i teenager che non vanno più a scuola, che non vogliono andare a fare le loro cose, cioè il loro diritto, il loro dovere andare a scuola, però per essere messi da parte preferiscono stare a casa. Quindi bisogna lavorare molto sull'informazione rivolta ai giovani, rivolta anche ai meno giovani, per carità. Certo. Però se la gente tutta capisce e conosce questa malattia, non succederà più questo, io lo spero tanto. E il professor Chimenti ha ragione, loro ce la mettono tutta per darci una mano e farci essere meno arrabbiati, però per noi ci vuole un po' di tempo, non è colpa loro, è colpa del mondo e della vita, e non lo so di chi. Io tante volte dico è colpa del santo che sta lassù, adesso non lo so chi, qualcuno che ci vuole far soffrire per poi meritarci il paradiso. Io ci credo poco, però insomma così dicono i preti. Professor Chimenti, quando ci sono delle età a rischio per l'insorgenza della psoriasi? Sì, io prima di rispondere a questa domanda volevo brevissimamente sottolineare quello che ha detto prima Mara. Sì. Nel senso, io stamattina ho visitato due o tre bambini che avevano diciamo una psoriasi non gravissima, ma a livello delle mani. Sì. Ecco, e la mamma di uno di questi bambini mi ha detto che il bambino viene discriminato fortissimamente a scuola e viene allontanato dai suoi compagni di classe. Quindi effettivamente come può crescere questo bambino che si sente rifiutato ed emarginato? Insomma, è una cosa. Comunque, per rispondere alla sua domanda, c'è più o meno alla seconda decade, e questa veniva diciamo scolasticamente definita come forma, come psoriasi di tipo 1, e verso la quinta decade, e questa veniva definita con il termine di psoriasi di tipo 2. In genere, però ripeto, ci sono moltissime varianti. In genere la psoriasi di tipo 1 è caratterizzata da una prognosi meno buona, e la psoriasi di tipo 2 invece, cioè quella che compare un pochino più in età matura, è caratterizzata da una prognosi migliore, diciamo dall'evoluzione clinica meno grave, diciamo. Professore, ci sono dei fattori scatenanti, e per fattori scatenanti intendiamo quegli eventi che possono provocare la comparsa di una malattia già presente in uno stato di latenza. Anche la psoriasi può essere infatti slatentizzata da alcuni fattori, ad esempio lo stress, oppure traumi psicologici severi. Quali altri elementi possono contribuire, professore? Ma per esempio alcuni farmaci. Alcuni farmaci possono... ad esempio gli ACE inibitori possono, oppure ad esempio un'infezione tonsillare. Noi abbiamo, insieme a un gruppo tedesco, abbiamo dimostrato le stesse alterazioni nel sangue, nelle tonsille e nella pelle di persone che sviluppavano un'angina streptococcica, diciamo un mal di gola, sì. E poi la comparsa successiva di psoriasi. Ecco, in questi casi ovviamente, oltre a curare il sintomo psoriasi, bisognerà rimuovere la causa. Certo. Per esempio, se uno ha una... bisogna sempre ricercare un eventuale focolaio che può sostenere questa malattia. È chiaro che c'è un discorso di predisposizione che noi abbiamo studiato insieme al professor Novelli, che oltre ad essere il nostro preside, adesso è il nostro genetista, e quindi abbiamo una collaborazione molto stretta con lui. E quindi... Avete molte informazioni in più riguardo a questa malattia, sì, ma mi sembra, signora Maccarone, mi corregga se sbaglio, che l'approccio nei confronti di questa malattia deve essere un approccio a 360 gradi, olistico, possiamo dire. Esatto. Vero? Globale. Sì, globale. Sì, restate con noi, perché noi parleremo di terapie, parleremo di ricerca, di novità, ma vogliamo anche dare la precedenza alle storie di chi della psoriasi porta i segni sulla pelle e nel cuore. Signora Maccarone, vuole lanciare un invito ai nostri ascoltatori da casa, che in modo da poterci raccontare la loro storia? Io vorrei proprio che la trasmissione di oggi, con l'aiuto del professor Chimenti, per quanto riguarda tutto il trattamento, la parte clinica, la terapia, ma soprattutto col suo aiuto, contribuisca con un po' di informazione in più a rompere questa barriera che separa ancora le persone affette da psoriasi dalle altre persone. Sì, io volentieri, cioè invito tutti a intanto telefonare adesso se vogliono parlare con il professor Chimenti, contattare noi con un numero verde che noi abbiamo, poi magari volo di rete, sì. Per informarsi, perché informarsi aiuta a vivere, non solo a vivere, ma a gestire meglio la propria malattia, la nostra, che è una malattia cronica, invalidante, e da molti molti problemi psicologici. E devo dire che i nostri ascoltatori stanno già mandando molti messaggi al 349 238 6666. Le telefonate arrivano all'800 24 00 24. Una mela al giorno. Come vi guarda il vostro bambino? I suoi occhi sono ben allineati oppure fanno fatica a centrare l'oggetto che ha catturato la sua attenzione? Bene, oggi parliamo di strabismo e lo facciamo in compagnia della dottoressa Leonora Annunziata, aiuto responsabile del servizio di ortottica dell'ospedale di Mestre. Dottoressa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Dottoressa, se diciamo strabismo, ci viene subito in mente l'occhio storto. È così o bisogna fare dei distinguo? No, ci può anche stare questa definizione se per storto intendiamo non in linea. In effetti lo strabismo è un disallineamento patologico degli occhi che compromette, in base all'età di comparsa, il corretto sviluppo del sistema visivo o la cooperazione visiva. Funzioni entrambe necessarie perché il cervello, che riceve l'immagine di un oggetto da ciascun occhio, le possa unire in un'unica immagine non solo quando guarda dritto davanti, ma anche quando si sposta lo sguardo nelle diverse direzioni. Quando compare lo strabismo in un bambino? Lo strabismo in un bambino può comparire anche poche settimane dopo dalla nascita, o essere anche più tardivo, entro l'anno. Può essere sempre costante o presente solo in alcuni momenti della giornata, interessare sempre solo un occhio o i due occhi alternativamente. Dottoressa, oltre all'occhio non allineato, ci sono anche dei movimenti oculari che potrebbero essere espressione di uno strabismo e immagino quindi più difficile da diagnosticare. Direi di sì, e anche i movimenti oculari che non sono coordinati nelle varie posizioni di sguardo possono alterare un corretto sviluppo visivo, perché le immagini non devono essere solo nitide da entrambi gli occhi, ma gli occhi devono anche essere perfettamente sincronizzati nei loro movimenti. Vuole farci degli esempi pratici in modo che noi possiamo riconoscere eventuali segnali sospetti nel nostro bambino? Direi che un atteggiamento che noi dobbiamo tenere come sospetto è la posizione di torcicollo. Sì. Questo anche dalla nascita. In tempi però più avanzati, per dire verso già uno o due anni, la chiusura di un occhio, il corrugare la fronte quando osserva o quando è in alcune condizioni di luce molto importanti possono far sospettare un problema a livello oculare. Dottoressa, io dottoressa, l'avevo interrotta, voleva fare una precisazione prima di passare alle cure? Sì, volevo dire che qualche volta lo strabismo non è reale, ma è soltanto apparente, perché una particolare conformazione delle palpebre può dare la sensazione di un occhio strabico, mentre invece poi funzionalmente non lo è. Che cosa rischia un bambino strabico? Quali sono i problemi di un bambino strabico, dottoressa? I problemi sono di carattere visivo, perché un occhio deviato può non essere correttamente utilizzato e quindi non sviluppa o perde l'acuità visiva fino a generare una patologia che noi chiamiamo ambliopia, che è una forma di debolezza visiva, per cui un occhio, anche se anatomicamente normale, non è in grado di vedere bene. È il classico occhio pigro, noi la chiamiamo così. Esatto, esatto, quello che si definisce occhio pigro. Possono originare delle problematiche motorie, perché lo strabismo è in grado di comportare disturbi posturali. Le alterazioni posturali possono anche loro comportare delle problematiche visive, per cui in questa situazione, nello strabismo, il rapporto deve essere allargato, o l'osservazione deve essere allargata anche ad altri sistemi che sono necessariamente integrati col sistema visivo, perché permettono di orientare e di muoverci in sicurezza nello spazio. Dottoressa, come si cura lo strabismo? Lo strabismo ha diverse metodiche. In assoluto dobbiamo sempre passare attraverso l'uso degli occhiali. Questa è una cosa che spesso è difficile da far digerire ai genitori, però l'occhiale è importante sia per correggere i difetti visivi, che sono spessissimo legati al problema dello strabismo, ma anche perché sulle lenti noi possiamo utilizzare dei filtri penalizzanti, delle lenti prismatiche. Ecco, quindi in effetti l'occhiale è fondamentale. Dal trattamento ottico poi passiamo agli esercizi di ginnastica oculare, a trattamenti poi anche più invasivi come l'infiltrazione di tossina botulinica e la chirurgia classica. Dottoressa, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. E buona giornata a voi. Pronto soccorso. E noi torniamo a parlare di psoriasi, ce ne sono diverse forme di diversa gravità. Abbiamo in linea con noi il professor Chimenti e Mara Maccarone, presidente della DIPSO. Professore, intanto abbiamo subito una telefonata, ci arriva da Roma, da Roberto, 800-24-0024. Roberto, benvenuto e buongiorno. Buongiorno, salve. Senta, ho una curiosità, io ho 55 anni, una decina d'anni ho la psoriasi, ho notato che andando in vacanza in Germania, e quindi non mangiando in quel periodo più né pane bianco, perché c'è il pane nero che mi piace, né mangiando più la pasta, quindi i farinaci, io sono tornato, non avevo più la psoriasi, sono tornato a casa in Italia, ho ripreso la mia dieta normale da buon pastasciuttaro e ho visto che come io aumento tutto ciò che è farina bianca, cereali eccetera, no cereali, il frumento, mi ritorna abbondantemente la psoriasi. Non so se è un caso, una coincidenza o c'è qualcosa di più. Grazie Roberto. Professor Chimenti. Roberto, buongiorno, grazie della domanda. Io credo che sia una coincidenza, non ci sono evidenze cliniche che dimostrino il fatto che ci sia una remissione di psoriasi in conseguenza a questo tipo di dieta. E io credo che lei, andando in Germania, si rilassi anche, quindi darei il beneficio, darei il meglio di questa apparente risoluzione a un fatto di... Quindi la dieta non c'entra, professore? La dieta non c'entra. Così così rispondiamo anche Mariella da Tortona, che ci scrive se la dieta può essere un fattore scatenante e se la psoriasi può essere un'espressione di un'intolleranza. No, assolutamente no. Ripeto, non ci sono ancora studi scientifici che dimostrino queste cose, anche se, ad esempio, un'alimentazione a base di pesce favorisce una remissione un po' di della psoriasi, e anche se abbiamo dimostrato, e questi ci sono, di quello che sto per dire ci sono evidenze cliniche, che il dimagrimento fa migliorare la psoriasi. Allora, ho diversi messaggi di ascoltatori, vi leggo quello di Giovanni, che sicuramente farà piacere a Mara. Ho la psoriasi da 20 anni, la vivo senza emarginazione, faccio l'attore anche in TV, non ci auto affliggiamo. Mara. Bene, complimenti, ci serve una persona come lui, se fa l'attore, uno famoso, ci aiuti, ci faccia la testimonia, così quei milioni di persone che sono depressi e vivono questa malattia male saranno molto meglio. Grazie, magari. Magari, dice Mara. Magari. Cesare ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno Cesare. Sì, buongiorno. E dunque io da 6 o 7 anni appunto ho scoperto di avere la psoriasi, le solite posizioni, gomiti, ginocchia, mani. Senta Cesare, l'ha vissuta male? Diciamo no, perché non sono... è diciamo molto non si nota molto, sì. Ecco, sono piccole chiasse. Niente, il dermatologo mi ha dato le solite creme al cortisone, ma diciamo una decina di mesi fa ho notato delle tumefazioni alle ossa e quindi ho smesso di mettere queste creme. Attualmente sto mettendo un prodotto a base di oli essenziali e diciamo che vedo un miglioramento, perché la parte diciamo squamosa bianca non c'è più, sì. Rimangono un pochino delle chiazze rossastre, però volevo chiedere appunto se con questo sistema di oli essenziali può funzionare, oppure dopo un po' di tempo anche questo poi lascia il tempo che trova. Professor Chimenti, una risposta rapida a Cesare, perché abbiamo i mercati finanziari che ci aspettano. Certo Cesare, gli oli essenziali migliorano, ma non sono diciamo curativi, quindi è ovvio, oggi abbiamo a disposizione delle terapie topiche molto efficaci, quindi io mi rivolgerei a queste. Ad esempio derivati della vitamina D3, per esempio. Tra poco continueremo a parlare di terapie per le forme lievi, per quelle severe, ma vogliamo anche parlare di una manifestazione di questa malattia che non riguarda solo la pelle, ma anche interessa le articolazioni. Ormai si può dire che la psoriasi non è più solamente una malattia della pelle, come ci ha in parte già accennato il professor Chimenti. Psoriasi, questo è il tema di oggi, 824 0024, in linea con il professor Chimenti, Mara Maccarone, ci attende Giancarlo da Salerno, ma adesso andiamo a sentire le ultime novità che arrivano dal mondo della ricerca e della medicina, sono commentate per noi dal professor Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. GR Salute. Ricercatori tedeschi mettono a punto valvole cardiache per piccoli pazienti capaci di superare i limiti di quelle attuali. Ogni anno 1200 bambini in Europa devono sottoporsi ad un intervento per sostituire una valvola cardiaca che non funziona bene. Quello che si fa normalmente è impiegare delle valvole meccaniche che richiedono una terapia anticoagulante per tutta la vita e poi c'è il rischio di infezioni, oppure biologiche, cioè valvole che derivano da tessuti animali. In tutti i casi queste valvole si usurano e nel corso della vita il paziente rischia di doversi sottoporre a più interventi chirurgici, con tutti i rischi e i disagi che questo comporta, in particolare dovere riaprire di nuovo il torace per un nuovo intervento chirurgico. Adesso ricercatori tedeschi hanno messo a punto delle valvole cardiache fatte così. La valvola viene recuperata da un donatore umano o animale e viene privata delle sue cellule, in modo che ne rimanga solo la struttura. Questa viene poi ripopolata con cellule proprie del paziente. E nell'arco di questo succede in laboratorio, e nell'arco di qualche settimana è pronta una valvola quasi naturale, che una volta impiantata nel cuore malato cresce con lui. I primi due piccoli pazienti a ricevere queste valvole sono stati operati 6 anni fa e stanno bene. È presto, ma è una grande notizia che potrebbe rivoluzionare l'area della chirurgia cardiaca. Anestesia durante il parto, la ricerca valuta i potenziali rischi. C'è uno studio presentato proprio in questi giorni alla Società Americana di Anestesiologia. Ha documentato che il rischio di morte associato all'anestesia durante il parto è bassissimo, 1 su 1 milione. I ricercatori hanno esaminato le cause di morte durante il parto per un periodo che andava dal 97 al 2002. I ricercatori, anche se hanno visto che i risultati di questo studio dimostra che l'anestesia non si associa a più morte di parto, non abbassano la guardia però e suggeriscono di continuare questi studi per vedere di migliorare anche questo dato. Durante il parto una sola morte di fatto è una tragedia. E veniamo alla domanda di Giancarlo che ci chiama da Salerno. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno a tutti e grazie per l'interessamento a questo argomento. Volevo chiedere una cosa, mio figlio adesso ha 10 anni, verso i 3 o 4 anni ha avuto diciamo un'esplosione forte di questa diciamo di questa malattia, avendo delle macchiettine su tutto il corpo, diciamo a 2-3 centimetri l'una dall'altra, quasi tutto il corpo. Noi sì. Con delle creme abbiamo adottato degli accorgimenti, poi dopo i 4 anni non ha avuto più questa esplosione. Sì. Io vorrei chiedere, può capitare che viene un'altra volta con questa intensità o è una esplosione iniziale che poi dopo viene più calma? Grazie Giancarlo. Professor Chimenti, abbiamo bisogno del suo aiuto per rispondere a Giancarlo. Ma non c'è una risposta, può succedere. La psoriasi è una malattia estremamente prevedibile e quindi io mi auguro di no, ovviamente per il figlio del signor Giancarlo, e in genere non succede, però potrebbe succedere, succedere che si ha una manifestazione sovrapponibile a quella che ha avuto. Io volevo chiedere a Mara Maccarone, sempre tanto sull'informazione, arrivano molti messaggi di ascoltatori che ci chiedono se ad esempio l'aloe faccia bene. Un ascoltatore dice: io mi sto curando con grandi risultati con l'aceto bianco. Un altro ascoltatore ci chiede: è un periodo che sto usando il carbone vegetale, mi vedo molto migliorato. Ecco, dove la Dipso riesce anche un po' a rispondere a queste richieste e ad aggiornare i malati su eventuali novità, o anche a sbugiardare leggende metropolitane. Mara. Esatto, la seconda che ha detto. La seconda che ha detto, sì, perché purtroppo noi siamo un mercato bello, lo devo dire con molto dispiacere, però attraente. Siamo tanti, siamo più di 3 milioni, quindi qualcuno ci cade nella rete. E invece noi, e io personalmente, perché sono malata da 40 anni, sempre diciamo prima lo specialista e poi tutto il resto, perché il medico sa, conosce la malattia, e non è come una persona che si sveglia la mattina e dice: che bello, adesso ho inventato una crema per la psoriasi, la divulghiamo, lo diciamo a tutti. Ecco, ma allora, professor Chimenti, si rischia, si può rischiare a così provare senza il consiglio del medico rimedi suggeriti magari su internet o altro? Ma sicuramente internet è un veicolo molto importante, dove però non c'è nessun controllo, quindi teoricamente io posso mettere un annuncio che io sono in grado di guarire la psoriasi, prenderà in giro la gente, perché non è assolutamente vero. Quindi io è chiaro che ogni tanto io visito tantissima gente che ha la psoriasi, che mi dice: sai, io sono stato meglio con, ma ne dicono di tutti i colori, con il pomodoro, con l'aloe, con quello, con quello, con quell'altro. In assenza di uno studio in doppio cieco, come si fa a dire che quello funziona rispetto a quella? Questa è l'unica. Io concordo con la dottoressa Maccarone al 100%, cioè sta proprio all'associazione intervenire e dire: guardate che questa è una bugia, questo non è vero, questo non è. Quindi insomma, sono d'accordo con la dottoressa Maccarone io. Professor Chimenti, abbiamo detto che la psoriasi non è solo una malattia della pelle, può avere anche manifestazioni a livello articolare, vero professore? Noi questa malattia, noi dermatologi la chiamiamo psoriasi artropatica, i reumatologi la chiamano artrite psoriatica, insomma, è la stessa cosa. Insolito, in genere riguarda più o meno fra il 15 e il 20% dei pazienti che soffrono di psoriasi, hanno questo coinvolgimento articolare. E la bravura, siccome in genere compare prima la psoriasi cutanea, la bravura del dermatologo sta proprio nel saper riconoscere i segni iniziali di un'artrite psoriasica, ovviamente, di una componente, proprio per curare prima e intervenire il più precocemente possibile, perché noi sappiamo che se aspettiamo 3-6 mesi i segni diciamo articolari diventeranno irreversibili, quindi il povero paziente si tiene queste articolazioni che cominciano a deformarsi. Certo, io chiederei alla signora Maccarone, quindi i medici sono vigili e attenti, pronti a cogliere i segnali, o si potrebbe fare meglio? I malati di psoriasi sono sensibilizzati a questo potenziale rischio, che cioè la malattia non si manifesti solo a livello della pelle, ma possa anche andare a interessare articolazioni? Non sempre, diciamo che adesso ci stiamo lavorando molto su questa non prevenzione, ma su accuratezza della malattia, non trascurarla, curarsi, andare subito dal medico, perché oggi veramente, come diceva il professor Chimenti, sono molto più preparati di prima tutti su questa malattia, perché io ricordo ai miei tempi, purtroppo la mia malattia era stata scambiata per un eczema, un'allergia da contatto, quindi oggi non succede più, e oggi si vede anche meglio l'interessamento artropatico. Quindi io penso che con la vostra informazione, la nostra e quella di tutti i medici veramente, potremo raggiungere obiettivi, se non altro di non avere un malato cronico come me e come altri migliaia di persone, perché il malato cronico la società costa tanto, lo so, però se riesce a tenere sotto controllo bene la malattia, non sarà un peso per la società e non sarà un peso per la famiglia. Quindi medici attenti, pazienti informati, e medici che collaborano tra loro, dermatologi e reumatologi. In linea con noi abbiamo il professor Antonio Spadaro. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Associato di reumatologia alla Sapienza Università di Roma. Il professor Chimenti ci ha già illustrato il problema dell'artrite psoriasica e io immagino che dalla collaborazione tra dermatologi e reumatologi sicuramente la situazione possa cambiare, è cambiata in questi ultimi anni. Lei dal suo osservatorio che cosa ci dice? Beh, io dico assolutamente sì, perché la collaborazione fra dermatologo e reumatologo è un punto centrale, anche perché la comparsa di un dolore articolare necessita di un corretto inquadramento, perché non è che tutti i dolori articolari associati a psoriasi ci permettono di dire quella è un'artrite psoriasica. Sì. Dobbiamo inquadrare correttamente questo dolore articolare, perché questo dolore articolare deve essere un dolore articolare di tipo infiammatorio, e questo è estremamente importante verificarlo anche con la semplice anamnesi, la semplice storia del paziente. Questi pazienti avranno un dolore durante la notte, quando si svegliano la mattina non avranno la capacità per esempio di chiudere bene la mano, muovere il polso, perché è una rigidità che dura a lungo, cioè sono tutti criteri che ci portano a sospettare che siamo di fronte a un'artrite. Vogliamo aggiungere altri segnali che così da casa gli ascoltatori affetti da psoriasi possono riconoscersi? Quindi il dolore, un tipo particolare di dolore. Lei ha citato il dolore notturno, la difficoltà al mattino di muovere le articolazioni. Ce ne sono altri? Beh, direi ovviamente poi ci sono i segni associati all'infiammazione, però direi che proprio il dolore notturno e la rigidità sono gli elementi che devono spingere il paziente a consultare uno specialista. Si poi può curare, vero professore? Assolutamente sì. Fermiamoci qui. Artrite psoriasica, in linea con noi il professor Chimenti, il professor Antonio Spadaro e Mara Maccarone. Professor Spadaro, quindi la diagnosi deve essere rapida, i dermatologi aiutano sicuramente perché nella relazione con il paziente durante la visita, professor Chimenti, segnali sospetti vengono evidenziati, professore? Certo. Nel caso, come un approccio d'equipe, si passa al reumatologo. Professore, ci sono delle cure? Si può evitare che la malattia progredisca? Sicuramente sì, perché esistono al momento delle cure che hanno sicuramente rivoluzionato quello che è l'approccio terapeutico, perché noi sappiamo che il paziente che viene da noi vuole risolvere il problema dolore, il problema impotenza funzionale, e per questo noi abbiamo dei farmaci che possono agire nell'immediato, per esempio gli antinfiammatori, ma sicuramente non bloccano quella che è la malattia. Sicuramente abbiamo invece dei farmaci come i farmaci di fondo e recentemente i farmaci biologici, cioè dei farmaci che agiscono su una molecola che è implicata in quella che è la malattia, il fattore di necrosi tumorale. È un fattore questo che viene bloccato in maniera selettiva, specifica da questi nuovi farmaci, e questo quindi permette al paziente di recuperare quella che è la sua capacità funzionale, risolvere la sua sintomatologia. Ma aggiungerei un altro aspetto sì. che è molto importante nell'artrite psoriasica, che questi sono farmaci che riescono a cogliere due obiettivi e due bersagli nello stesso tempo, cioè curare sia la pelle e sia le articolazioni. Grazie professor Spadaro per essere stato con noi, buona giornata, grazie anche per queste buone notizie. Professor Chimenti, abbiamo tantissimi ascoltatori che cercano di mettersi in contatto con voi, volevo chiedere, per chiudere questa parentesi sull'artrite psoriasica, può interessare sia le forme lievi che quelle severe? Senz'altro, ma io vorrei aggiungere una cosa, nella nostra università a Tor Vergata, al Policlinico di Tor Vergata, noi abbiamo un ambulatorio dedicato proprio per queste forme che viene gestito in, diciamo, al 50% da noi dermatologi e dai colleghi reumatologi. Quindi io un team. Di questo devo ringraziare ovviamente l'autorità sanitaria, la direzione certo. sanitaria, la direzione generale del nostro ospedale, della nostra università, per aver permesso e continuare a certo, e speriamo che sia un esempio per il resto d'Italia, per tutti i centri. Andiamo a Marcella da Taranto. Buongiorno Marcella. Buongiorno Marcella. Sì. Innanzitutto grazie per questa possibilità di intervenire in diretta. Comunque io chiamo non per me ma per mia figlia che ha 3 anni sì. e che circa un anno fa le è stata diagnosticata appunto una forma infantile di psoriasi al cuoio capelluto. Sì. Volevo sapere, siccome nel periodo in cui compaiono queste chiazze in testa, che sono soprattutto i mesi autunnali o invernali, le compare anche un herpes recidivante sotto l'occhio. Sì. Volevo sapere se la psoriasi non potesse essere causata anche da un abbassamento delle difese immunitarie, dato che è accompagnato appunto dall'herpes sotto l'occhio, e se eventualmente quali sono o le precauzioni o le conseguenze che questo può portare a lungo termine. Grazie Marcella. Professor Chimenti. Marcella, dunque sicuramente sì, c'è una componente delle difese immunitarie sicuramente. Diciamo problemi a lunga scadenza sono gli stessi di un qualsiasi di un bambino che può soffrire di psoriasi, ma comunque sa, senza vedere il caso clinico è molto difficile dare una risposta. Comunque a naso mi sembra questa la risposta corretta. Mara Maccarone voleva intervenire? Sì, noi siamo abbastanza preoccupati di questo avvento dei bambini con la psoriasi. Perché nel senso che stanno aumentando o prima o non se ne parlava, quindi questo è un frutto dell'informazione? Esatto, questo è il frutto dell'informazione. In piazza da noi ne sono venuti tantissimi di bambini con le mamme, con i genitori, stanno telefonando tantissimo. Sì. E quindi io penso che un aiuto grande si possa dare ancora informandoli che si possono curare, si può tenere sotto controllo, e le madri, appunto, come diceva il professor Chimenti, non devono disperarsi, perché fortunatamente oggi ci sono le cure. Esatto. Soprattutto, professor Chimenti, che allontanano le, non so se posso usare questo termine, le recidive. Sicuramente sì, come già ha detto, ha menzionato il professor Spadaro, ovviamente anche noi utilizziamo molto, cioè quando serve, ovviamente, certo, seguendo certe regole dettate dalle leggi dello Stato italiano. I farmaci, i cosiddetti farmaci biologici, a differenza dei reumatologi noi ne abbiamo 4, quindi abbiamo anche uno specifico proprio per la psoriasi cutanea, e devo dire che hanno rivoluzionato il decorso clinico di questa malattia. Noi abbiamo qui da noi a Tor Vergata, stiamo sperimentando altre 2 nuove molecole che ancora non sono ovviamente in commercio. Ci aggiornerà, vero professor Chimenti? Vogliamo essere i primi. Ovviamente, ma i risultati preliminari, se così si può dire, sì, sono molto, molto, molto, molto, molto preliminari, sono veramente eccezionali. Quindi la ricerca scientifica... Mi piace, perché questa puntata è iniziata con un messaggio di ottimismo e abbiamo ancora un paio di minuti, il tempo di sentire i nostri ascoltatori, ma mi sembra che anche da parte del professor Chimenti, di Mara Maccarone e del professor Spadaro l'invito sia ci si può curare. Maria, dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Dunque io volevo dire che circa 25-26 anni fa, a seguito di uno shock traumatico, sì, ho avuto un attacco di parapsoriasi, così mi è stata diagnosticata, tremendo. Mi sembra di essere stata curata bene, perché allora mi hanno ricoverata in ospedale, mi hanno... Sì. Adesso come va? Adesso va meglio, solo nei casi in cui io ho dei problemi pesanti in famiglia. La sua pelle dà segni di, esatto, disagio, eh? Ecco, un disagio a fior di pelle. Maria, siamo quasi, volevo dare anche la possibilità ad Angela di intervenire, quindi chiedo subito al professor Chimenti di dare una risposta, Maria. Una risposta non è... Non è possibile. Le spiego, perché se lei ha una diagnosi di parapsoriasi... Che cos'è? La parapsoriasi è un linfoma, un linfoma molto, molto indolente, molto banale, ma non ha nulla a che vedere con la psoriasi. Ha solo un nome che le assomiglia, ma è tutt'altra cosa. Esatto. Abbiamo proprio mezzo minuto per Angela da Lecce, buongiorno. Buongiorno, salve. Volevo solo chiedere un'informazione. Praticamente alla mia bambina di 9 anni e mezzo... è stata diagnosticata una forma psoriasi alle unghie del piede. Sì. Volevo chiedere se eventualmente si potrà manifestare anche alle unghie delle mani. Sì. E cosa e fare? Se potrà manifestarsi anche poi alla pelle, quindi come succede agli altri. Grazie, e se c'è Angela. Qualcosa per poter, certo, attenuare la manifestazione. Professor Chimenti, in meno di un minuto. Teoricamente sì. Il farmaco, l'unico farmaco possibile in questi casi è l'acido tazarotenico, che comunque risponde nel 50% dei casi di psoriasi ungueale. Tazarotenico. Esatto. Un nome difficile, ma funziona. No, si chiama così. Professor Chimenti, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a Mara Maccarone. Grazie. Vi ricordo il numero verde della Dipso, ma lo mettiamo anche naturalmente sulla pagina di Essere Benessere, 800 031 566. La Dipso è a vostra disposizione. Se avete domande, dubbi e volete contattarci, noi faremo da tramite. Essere Benessere @radio24.it. Grazie a Mara Maccarone. per la vostra solidarietà. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.